GR24 Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Re di Wimbledon è sempre lui, Roger Federer. Lo svizzero batte Murray, trionfa per la settima volta sull'erba più prestigiosa al mondo e torna numero uno del tennis. Il servizio. Roger Federer ha scritto un'altra pagina della storia del tennis mondiale, vincendo ieri il suo settimo Wimbledon su Andy Murray, ha eguagliato il suo idolo di quando era ragazzino, Pete Sampras. Con il suo 17° successo in un torneo del Grande Slam ha migliorato il record che lui stesso già deteneva e, riguadagnando il primo posto nella classifica, supererà Sampras per numero di settimane in cima al tennis. A quasi 31 anni Roger Federer è tornato a occupare il posto che solo lui ha sempre continuato a credere potesse ridiventare suo. Negli ultimi due Wimbledon aveva perso da Berdych e Tsonga, ottimi giocatori ma non dei campionissimi, allo US Open dell'anno scorso aveva ceduto a Djokovic dopo aver avuto il match point. Nell'Olimpo del tennis Federer c'è, o forse non se n'era mai veramente andato. E così a suo agio in campo, anche se adesso dalle tribune insieme alla moglie Mirka lo salutano le due gemelline di 3 anni, da promettere che continuerà per almeno altri 4 anni. Nadal, Djokovic e Murray sono avvertiti. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La domenica dei motori ci porta sempre in Inghilterra con la Formula 1. A Silverstone trionfa la Red Bull di Webber, che supera nel finale un Alonso a lungo in testa ma tradito poi dalle gomme morbide. Terzo Vettel, quarto il re di Vivo Massa. Soddisfatto Stefano Domenicali, direttore della gestione sportiva di Maranello. Abbiamo fatto dei punti importanti, abbiamo fatto un salto importante anche nella classifica costruttori e poi Fernando ancora davanti al mondiale, quindi adesso abbiamo altre due gare dove abbiamo visto dei punti su cui dover lavorare da subito sulla macchina, quindi avanti, avanti e basta. Alonso con 129 punti resta in testa al mondiale davanti proprio a Webber con 116. Sentiamo l'asturiano nel dopogara. Abbiamo utilizzato all'inizio le gomme che erano più performanti, diciamo, abbiamo aperto un gap e alla fine sapevamo che quel gap spariva con le gomme un po' meno performanti. Purtroppo non abbiamo stato abbastanza veloci nella prima parte, forse ad aprire più gap, però è stato così, loro hanno fatto un buon lavoro e comunque contento. Per la MotoGP in Germania vince Pedrosa davanti a Lorenzo e Dovizioso. Clamoroso l'errore di Casey Stoner, caduto a poche decine di metri dal traguardo quando era in seconda posizione. Sesto Valentino Rossi dopo una buona rimonta con la sua Ducati. L'Audi, nuova proprietaria del marchio italiano, vorrebbe Rossi ancora in sella alla Ducati, ma lui nel dopogara Italia 1 non scioglie i nodi sul suo futuro. Quelli dell'Audi sono molto interessati a continuare e a fare qualcosa di buono, a aiutare la Ducati nei prossimi anni a tornare competitiva, ecco, quindi è un progetto ambizioso che a me mi fa molto piacere. E farlo con te? E farlo con me. E ora il Tour de France, ieri la vittoria del francese Pinot, oggi cronometro individuale che promette di scuotere la classifica generale. Sentiamo. Dopo un fine settimana di montagne, eccoci alla prova del 9, che poi è quella del tempo, del cronometro a Besançon, la città dell'orologia francese, che sicuramente riscriverà la classifica questo pomeriggio. Si parte da Arc-en-Senans per arrivare alla città del tempo dopo aver percorso 41,5 km. Tappa adattissima agli specialisti del cronometro, a uomini capaci di mulinare lunghi rapporti e tenere alte velocità. Esercizio di gambe ma anche di mente, serve forza e concentrazione. La maglia gialla Brad Wiggins lo sa bene, così come Cade Evans, l'ultimo vincitore della Grand Boucle. Terzo incomodo il nostro Vincenzo Nibali, simbolo di un ciclismo d'antan, meno avvezza alle cronometri rispetto a Wiggins e Evans. Dovrà giocare a difendersi, dovrà fare in modo di ridurre al minimo i danni per poter affrontare serenamente domani il primo giorno di riposo prima delle Alpi. Pieragusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Besançon. E per lo sport è tutto, ancora una buona giornata.